24 mattino di Alessandro Milan. Le 7:30 minuti, cari ascoltatori, eccoci, riparte una settimana di 24 mattino, siamo in diretta fino alle 9. E allora il sondaggio di oggi, parliamo di abusivismo. Perché? Perché venerdì scorso in Consiglio dei Ministri, un po' sotto silenzio per la verità, l'attenzione dei giornali alla politica è dedicata ad altro, è passata questa norma, questo decreto che allunga, da una proroga, il condono edilizio per la regione Campania. Erano già pronte le ruspe ad abbattere moltissime case abusive, ma si è voluto questo condono anche perché si è detto era una situazione sociale insostenibile. Insomma, molte case da abbattere erano le prime case, come per esempio nel caso di Ischia, dove c'è stata una rivolta anche da parte degli abitanti. E chi è il promotore di questo condono dice: in certi casi l'abusivismo edilizio, sempre da condannare, ma è di necessità per avere la prima casa. E allora, questo è il nostro sondaggio di oggi. Voi giustificate un abusivismo edilizio per necessità? Dovete votare su radio24.it, ne parleremo alle 8:30 di quella che è la situazione per quel che riguarda la Campania, l'abusivismo edilizio. Di questo più avanti, appunto, radio24.it, bianco o nero, lì per votare. E ora andiamo a vedere che cosa ci offrono i giornali in edicola. In primo piano di questo lunedì 26 aprile, allora, le aperture sono variegate, c'è chi sceglie la politica. Il premier, rinnovare la carta, questo il Corriere della Sera, che però mette anche in primo piano, ben in evidenza, la tragedia che è avvenuta ieri con questo Omar Bianchera, che ha ucciso 3 persone, un triplice omicidio davvero annunciato, lasciato libero di uccidere, così il Corriere della Sera in prima pagina. Per la Repubblica, Fini, irresponsabile andare al voto. Per la Stampa, un altro 25 aprile senza pace. Sul 25 aprile apre anche il giornale, i fascisti della liberazione, questo è il titolo del giornale. Mentre per l'Unità, le radici della memoria, il 25 aprile dell'Unità Mobile nell'ex lager di Fossoli, insomma, parla del 25 aprile dell'Unità. Per il Messaggero, Berlusconi, ora una nuova pagina. Ieri l'appello televisivo del premier. Per il Sole 24 Ore, invece, il Sole 24 Ore del lunedì, c'è un'interessante inchiesta sui bilanci locali, Venezia e Siena, i comuni più ricchi, poi vedremo di che cosa si tratta. Come detto, allora, c'è da un lato il 25 aprile con delle contestazioni incredibili che ci sono state anche quest'anno, e dall'altro lato la politica. Fini ieri è andata a Luce Annunziata in mezz'ora, e tra l'altro abituatevi, perché pare che Gianfranco Fini voglia fare una sorta di maratona televisiva. Domani è annunciato anche in un'intervista a Ballarò. Qualcuno ha detto: non possono andare in TV, come ha criticato Berlusconi, molti dei finiani, e allora ci vado io in prima persona. Fini ieri, come detto, è andato da Luce Annunziata: no alle elezioni, non faccio partiti, neanche imboscate, ma ha detto sostanzialmente: la destra moderna sono io. Ed è pieno di retroscena, di commenti sui giornali di come Berlusconi avrebbe vissuto questa intervista di Fini. Leggo il più interessante da Amedeo La Mattina su La Stampa, pagina 5. È un Giano bifronte. Così Berlusconi avrebbe detto di Fini: non si fida del presidente della Camera. In questi giorni Berlusconi l'ha definito proprio così, un Giano bifronte. Mentre lui va in TV da Lucia Annunziata sostanzialmente per suonare il flauto dolce, abbassare i toni, il suo ideologo di fare futuro, Alessandro Campi, con un'intervista a Repubblica uscita ieri, avverte che se salta tutto potrebbe nascere un governo tecnico con il PD. Dunque, qual è il vero volto del presidente della Camera? Questa è la domanda che si fa Berlusconi, e che si sarebbe posto anche ieri davanti alla TV, così dice anche Repubblica. Sostanzialmente un Berlusconi che non si fida di un Fini che va in TV a smussare un po' i toni, a suonare il flauto dolce, come scrive La Stampa, ma che in realtà per Berlusconi potrebbe essere insomma una tattica, anche questa, una strategia che nasconde qualcosa di più incerto. Dall'altra parte invece Berlusconi, anche lui è andato in TV, lo ha fatto con un messaggio, un messaggio che è stato recapitato ai telegiornali in occasione del 25 aprile, nel quale Berlusconi ha detto, faccio un appello, insomma, uniamoci tutti per cambiare la Costituzione, almeno quella seconda parte della Costituzione che ha detto Berlusconi sostanzialmente va rinnovata sempre però nel rispetto assoluto di principi di democrazia e di libertà. Però dobbiamo scrivere insieme una nuova condivisa pagina di storia nella nostra democrazia e nella nostra Italia. Insomma, vedendo questi due appelli, o meglio l'appello di Berlusconi e l'intervista di Gianfranco Fini, appunto i toni si sono un po' addolciti. Mettiamoci insieme che anche il presidente Napolitano un paio di giorni fa aveva detto viviamo tutti questo 25 aprile con maggiore serenità, con maggiore unità nazionale. Il risultato è stato frutta in testa a Nicola Zingaretti, il presidente della provincia di Roma, che cercava di difendere il presidente della regione Polverini, fortemente contestata. Un camion da parte di alcuni centri sociali che ha tentato di sfondare nel corteo e nelle manifestazioni per il 25 aprile mentre parlava Podestà, che è il presidente della provincia di Milano, e per contestare anche il sindaco di Milano Letizia Moratti. Insomma, il risultato è stato appunto quello che potete leggere sui giornali, abbiamo sentito anche il nostro GR, una serie di manifestazioni rovinate da alcuni che del 25 aprile probabilmente sanno anche ben poco. Polverini contestata, Zingaretti la difende e viene colpito al volto. Aggressione dell'ultrasinistra a Porta San Paolo, questo per il Corriere della Sera. A Milano fischi appunto per Moratti e Podestà. Il 25 aprile è inutile, ogni anno, soprattutto di questi anni, continua a creare tensioni. Come detto, il titolo del giornale in prima pagina è I fascisti della liberazione. A Milano i centri sociali invadono Piazza Duomo, zittiti Podestà e la Moratti, bersagliati sopravvissuti ai campi nazisti. Tra l'altro c'è un articolo in prima pagina, un editoriale di Giordano Bruno Guerri, che scrive: ogni 25 aprile, ormai da 15 anni, è la solita storia. In nome dell'antifascismo si attacca Berlusconi o i suoi uomini. Come è accaduto ieri a Roma e a Milano, si aggrediscono fisicamente anche le donne che fanno parte del suo schieramento, Polverini a Roma e Moratti a Milano. Tanto che Giordano Bruno Guerri dice: al di là degli episodi di ieri, la domanda da porsi è: l'anti-berlusconismo ha sostituito l'antifascismo? A me pare di sì. Infatti, al pericolo di un ritorno del fascismo non crede davvero più nessuno. Gli italiani non ne hanno alcuna voglia. L'Unione Europea non lo consentirebbe. Dunque, tra i più timorosi o fanatici, si pensa a un fascismo in doppio petto, travestito, che sostituirebbe la forza delle leggi e dei manganelli con quello della televisione. Ma, dice Giordano Bruno Guerri, si dà il caso che il PDL vinca le elezioni anche in regime di par condicio e che abbia vinto anche nelle recentissime regionali, provinciali e comunali, dove conta la fiducia negli amministratori locali. Insomma, è stato un 25 aprile di contestazioni, di tensioni, di problemi, tanto che in un'intervista al Messaggero il filosofo, ex sindaco di Venezia, Massimo Cacciari, è durissimo. L'idiozia è un male endemico, dice. Purtroppo però rispetto ai tempi del 43 mi sembra che il tasso di demenza pseudopolitica sia aumentato in maniera spaventosa e gravissima. Non mi aspettavo le aggressioni alla Polverina, alla Moratti. Da cosa deriva tutto questo? Beh, dice Cacciari, dal fatto che il grembo di colei che partorisce cretini è sempre fecondo. Il significato politico delle contestazioni è uno soltanto, che queste idiozie totali sembrano fatte apposta per dar ragione a chi la pensa come il leghista e neogovernatore veneto Zaia, ovvero che il 25 aprile è una barzelletta, una cosa inutile o ridicola, e che quelli che la celebrano sono come gli ultimi Viet Cong. Se la sono presa anche con gli anziani reduci della lotta partigiana. Che vergogna! Opposti estremismi? Chiede l'intervistatore. Ma che opposte imbecillità! Qui non ci sono le idee portate all'estremo, ma assenza di idee. Alla Polverini hanno gridato fascista. Spero che lei abbia risposto cretini. la Polverini e la Moratti hanno fatto benissimo ad andare in piazza a festeggiare la liberazione. Insomma, Massimo Cacciari sul 25 aprile. Intanto la politica, segnalo due interviste dopo quelle di Fini Berlusconi. Le due interviste del giorno sono entrambe di Repubblica. Repubblica intervista con Claudio Tito Pierluigi Bersani, il leader del PD, che dice: il governo secondo me non durerà altri 3 anni, non ci sono le condizioni per affrontare le riforme, anzi, dice Bersani, vedrete, Berlusconi utilizzerà il primo pretesto possibile per andare al voto. Il loro modello di azione non è fatto per decidere, è costruito per accumulare il consenso, ma vedrete che Berlusconi prenderà un pretesto qualsiasi per accelerare in curva. Accelerare verso dove? Chiede Claudio Tito. Verso le elezioni o verso un qualsiasi tipo di strappo. La bozza Calderoli che altro era? Un'accelerazione per coniugare solo l'interesse del Premier con quello della Lega. Riguardo al patto, sapete, Bersani, se siete attenti alla politica, ha proposto da alcuni giorni un patto repubblicano di alcune forze contro Berlusconi e ha allargato questo patto pure al presidente della Camera Fini. Qualche finiano ha detto è una provocazione becera da parte della sinistra pensare che Fini voglia questo, cioè voglia in qualche modo porre un problema politico all'interno del PDL addirittura per andare col centro-sinistra. Eppure Bersani dice il patto repubblicano non esclude Fini, ma certamente non è rivolto solo a lui. Insomma, Bersani comunque dice non arrivo a pensare che ci saranno 3 anni di governo, non vedo una cosa per domani, ma certamente una fase di logoramento potrebbe portarci fin lì, cioè fino al voto anticipato. Questo dice Bersani, mentre l'altra intervista del giorno è a Calderoli, anche qui la Lega molto attenta, Rodolfo Sala lo intervista per Repubblica pagina 7. Noi non accettiamo un doppio PDL, se ci saranno dei ribelli si va alle urne. Il responsabile non è chi parla di elezioni ma chi rischia di provocarle, dice Calderoli rispondendo a Fini che ha detto è responsabile pensare alle elezioni. È un'accusa al presidente della Camera? Magari lui no, piuttosto qualcuno che bada più alle proprie frustrazioni per incarichi mancati che alla sostanza politica, e per questo soffia sul fuoco. Allora sono i finiani. Per me i finiani non esistono, il PDL dovrebbe essere uno solo. Non mi sto riferendo dunque a Fini. Io stimo Berlusconi, ma non mi piacciono i berluschini. Allo stesso modo stimo Fini, ma non stimo i finiani. Che vabbè, in qualche modo si contraddice qui. Prima dice i finiani non dovrebbero esistere, poi però sono quelli che un po' danno fastidio. E poi Calderoli dice attenzione al Parlamento. Il Parlamento intanto non può sfiduciare il Presidente, dunque se Fini se ne va può dare le dimissioni ma non in seguito a una richiesta. Però voglio vedere cosa succederà in Parlamento, non deve succedere che se arriva in aula un provvedimento concordato nella maggioranza qualcuno non lo vota. Prenda il processo breve, per il quale tra l'altro io non mi scaldo, il Senato l'ha approvato e non esiste che rimanga chiuso in qualche cassetto della Camera. Dunque, questo è il tema, insomma, Calderoli dice vedremo ora che succederà in Parlamento. Oh, la politica sostanzialmente è qui, è questa. Voglio andare, come detto, sul Sole 24 Ore dove c'è un'interessante inchiesta sui bilanci locali, Venezia e Siena, i comuni più ricchi. Il Sole 24 Ore del lunedì, come sapete, sempre ricco di numeri, il Giro d'Italia di tasse e tariffe, un'inchiesta, se andate a vedere quelle che sono la ricchezza autoprodotta, possiamo dire così, a pagina 4 e 5 trovate 2 intere pagine con molte tabelle. Venezia e Siena sono appunto i comuni capoluogo più ricchi d'Italia, ricchi tra virgolette, c'è una ricchezza relativa in una panoramica che vede i sindaci, tutti i sindaci, scrive il Sole, alle prese coi tagli di risorse e le richieste progressive del patto di stabilità. Comunque, che cosa si è andata a vedere? Le capacità di generare entrate proprie. Allora, per esempio, le entrate tributarie, i proventi di imposte, tasse, diritti, tributi speciali. Prima è Venezia, per l'appunto. Certo, incluse le entrate del casinò, e infatti sono quei 185 milioni di euro che pesano di più. Poi Lecce, Olbia, Caserta, all'ultimo posto Taranto. Venezia 928 di euro per abitante i proventi di imposte, Lecce 805, Olbia 778. Poi le entrate extratributarie, i proventi dei servizi, cioè le tariffe, e dei beni dell'ente, per esempio l'occupazione del suolo pubblico. In questo caso è Siena in testa. L'euro 888 euro per abitante raccolti davanti a Brescia 772, Firenze, mentre all'ultimo posto c'è Enna, 38 euro per abitante. Ma comunque trovate tutte le varie classifiche come al solito sul Sole 24 Ore del lunedì. In questa interessante inchiesta vedete un po' il vostro comune o la vostra provincia a che punto è. In primo piano, lasciato libero di uccidere. Questo, come detto, il titolo mi ha molto colpito in prima pagina del Corriere della Sera. È la storia che racconta la storia di questo Omar Bianchera, camionista di 44 anni, una vicenda davvero incredibile di ieri. In un impeto di follia, almeno così è definita, anche se in realtà era un triplice omicidio che si scopre aveva preannunciato da tempo, insomma, ha compiuto una strage, ha ucciso prima la ex moglie e poi una donna anziana con la quale era in lite da tempo, infine una terza persona. Fino dopo 10 ore si è arreso. Perché libero di uccidere, scrive il Corriere? Perché appunto tra l'altro vi dedica pagina 2, pagina 3, cioè l'apertura, pagina 5 anche. Perché quello che è successo in provincia di Mantova, come detto, era abbondantemente preannunciato. Minacce, 44 Magnum, la strage di Rambo, una persona che da tempo andava in giro, dicono gli amici, girava con la pistola in tasca, prima o poi l'avrebbe usata, ogni tanto sparava nel prato qui dietro. Erano anni che martirizzava quella poveraccia della moglie, che non si capisce neanche bene se l'abbia mai denunciato per il cosiddetto stalking, le molestie. Insomma, tutti però dicevano era preoccupata, lo sapevano tutti che era pazzo, lo sapevano tutti che prima o poi avrebbe compiuto quello che ha compiuto. Davvero trovate pagine di cronaca, vi invito a leggere anche Piero Colaprico su Repubblica, ne parla, giornalista e scrittore che di questi temi ne scrive lucidamente, drammaticamente, molto bene. Ho fatto un macello, sono stanco. Così dopo 10 ore di follia si è conclusa appunto la parabola criminale di Omar Bianchera. Siamo alle segnalazioni conclusive. Oh, Marrazzo! Marrazzo, sapete che è pronto a tornare in Rai. Oggi la notizia la dà Repubblica, pagina 16. Marrazzo tornerà a Rai 3. Ci sono già le polemiche, c'è chi dice non è opportuno. Non andrà in video, questa dovrebbe essere la prima limitazione. Però si racconterà in un'intervista, domenica prossima dovrebbe essere ospite di Lucia Annunziata in mezz'ora. Non torna in video, ma torna come caporedattore responsabile. Così fa sapere il direttore Di Bella, insomma il direttore di Rai 3 si sta molto mediando, rientra come caporedattore, sarà a disposizione del direttore. C'è chi dice non deve andare in video, forse lui stesso ha chiesto di non voler andare in video, farà questa intervista alla Lucia Annunziata. C'è qualche consigliere della Rai che già si è opposto, staremo a vedere, creerà qualche polemica. Vabbè, come definire? C'è un'intervista a Pietro Grasso, procuratore antimafia, sull'Unità, ma un po' ovunque, anche sul Corriere, il raid contro l'albero di Falcone in via Notarbartolo, dove ieri sostanzialmente il procuratore Alfredo Morvillo, che tra l'altro è il fratello della Morvillo che è rimasta uccisa, insomma la moglie di Falcone è rimasta uccisa a Capaci, il cognato dunque di Falcone, dopo aver parlato con il portiere, hanno strappato fino all'altezza di 1,5 metri in un raid vandalico oppure in un gesto di intimidazione, bisogna capire, tutti quei messaggi che da tutto il mondo la gente va ad appiccicare, ad attaccare in via Notarbartolo, appunto dove c'è l'albero Falcone, rubati i disegni e le lettere per il giudice. C'è anche un'intervista a Franco Battiato, siciliano, che dice è un'azione da primitivi. In questa intervista a Giovanna Cavalli, Dice: è cambiata in peggio non la città, è cambiata in peggio tutta l'Italia. La segnalazione conclusiva è riguardo al codice della strada. Un codice della strada, una nuova legge che ha un parto, per la verità, molto lento, tanto che il ministro Matteoli ha detto: non ne posso più delle perdite di tempo, o ci muoviamo o farò un decreto. Che cosa si sta studiando? A pagina 23 del Corriere della Sera tutte le novità allo studio, le più interessanti. Allora, si sta discutendo se aumentare a 150 km orari il limite di velocità laddove c'è il sistema di controllo tutor e laddove c'è l'autostrada a tre corsie. Oppure si sta studiando se mettere l'obbligo per tutti i motociclisti di indossare il paraschiena, oltre ovviamente al casco obbligatorio. In più si sta studiando se mettere obbligatorio il casco anche per i ciclisti. E ancora le cinture per la minicar. Oppure la possibilità per gli automobilisti di pagare la multa entro 10 giorni e quindi di avere uno sconto. Chi paga subito la multa avrà uno sconto. Insomma, queste sono tutte le norme allo studio del nuovo codice della strada. Certo, diamoci una mossa, perché se ne parla sempre delle norme allo studio, e poi anche il ministro Matteoli ha detto: però si facciano, perché altrimenti si continua a parlare e non si fa nulla. Allora, ci fermiamo con questa segnalazione. Il sondaggio di oggi è l'abusivismo edilizio. Il Consiglio dei Ministri ha previsto una proroga dei condoni per la sola regione Campania. Fermate già le ruspe pronte ad abbattere gli edifici abusivi, perché secondo qualcuno c'è un abusivismo di necessità per la prima casa. Voi giustificate un abusivismo di necessità? Ne parliamo alle 8.30, dovete votare su radio24.it, ora il GR. Alle 8.18 minuti, eccoci qua in diretta nuovamente, eccoci con Deborah Rosciani. Soldi e dintorni. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Hai tagliato i capelli? Sì, ma... la folta chioma l'hai sfoltita stamattina. La folta chioma, sì. Allora, parliamo di rifiuti un'altra volta. Cominciamo bene la settimana. Perché i capelli con i rifiuti? Vabbè. No, vabbè, da guarda, è stato un salto che ci hai visto solo tu. Allora, neanche 2 settimane fa parlavamo proprio di questo stesso argomento di questa mattina. Gli ascoltatori diranno: ma non avete altro di cui parlare? E in realtà invece è una questione che ha appassionato molti, per cui ci siamo ritornati. Dove siamo ritornati? Sulla vicenda IVA sulla TIA, cioè l'IVA applicata alla tariffa di igiene ambientale. Nell'ultima puntata che avevamo dedicato a questo argomento, il nostro ospite, Luigi Lovecchio, che è con noi anche questa mattina, che saluto, dottore commercialista, esperto in materia fiscale per il Sole 24 Ore. Lovecchio, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie. Sottolineava proprio l'assenza di una pronuncia definitiva, ufficiale, finale in merito a questo problema. È finita questa attesa perché... teoricamente, in realtà, ancora. Giovedì scorso, 22 aprile, è stata firmata da un gruppo di parlamentari di maggioranza, è stato firmato l'emendamento della legge di conversione al decreto incentivi che annulla la pronuncia della Corte Costituzionale dell'anno scorso, del luglio scorso, di cui abbiamo tanto parlato e che aveva stabilito che la tariffa di igiene ambientale era un tributo, ovvero una tassa, e pertanto in questa veste non gli poteva essere applicata l'IVA. Allora, Lovecchio, in realtà sì, abbiamo detto che, come dire, è finita l'attesa, è arrivato questo emendamento che potrebbe di nuovo essere rivisto naturalmente, però di fatto si tende teoricamente a dire che la Corte Costituzionale sbagliava. Sì, allora diciamo innanzitutto che gli emendamenti sono 2, a quel che leggo dai giornali, e sono tutti e 2 della maggioranza e sono entrambi di segno opposto, perdonatemi il bisticcio, sono tutti e 2 di segno opposto, perché uno, quello che è stato appena ricordato, tende sostanzialmente a far finta che la Corte Costituzionale stesse scherzando, e l'altro emendamento invece tende a prendere atto della sentenza della Corte Costituzionale, afferma che la TIA è un tributo, afferma il principio che l'IVA sulla TIA non si deve applicare, però poi sostanzialmente annulla tutte le possibilità di rimborso degli utenti, affermando il principio che l'IVA che è stata addebitata in passato costituisce una componente di costo della TIA e pertanto non può essere rimborsata. Quindi da un lato c'è un emendamento che dice La TIA è un corrispettivo, non è un tributo, bene hanno fatto ad applicare l'IVA sulla TIA. Dall'altro un altro emendamento che dice no, la TIA è un tributo, su quella tariffa non deve essere applicata l'IVA, però l'IVA che in passato è stata debitata, ecco, oramai fa parte del costo. Infatti è come se si volesse mettere in piedi un impianto con il quale dire per il futuro cercheremo di disciplinare la questione secondo quanto ci ha indicato e suggerito la Corte Costituzionale, ma attenzione, per il passato non abbiamo intenzione di fissare dei paletti legislativi che diano la possibilità di chiedere dei rimborsi a tutti gli utenti che magari in questi anni hanno scatenato dei conflitti con i gestori del servizio. Luciano, in realtà, Luigi, può essere questa, che afferma che la TIA è un corrispettivo, lavora anche per il futuro sostanzialmente, nel senso che per il futuro afferma il principio che l'IVA continuerà ad essere applicata e tutto continuerà apparentemente come prima. Ora, la cosa molto singolare di questo secondo emendamento è che loro ritengono con una semplice frase di annullare tutto l'impianto che è stato affermato dalla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale ha detto che questo è un tributo, non basta scrivere che la TIA è un corrispettivo, lasciando inalterate tutte le regole applicative, per trasformarlo da tributo a entrata patrimoniale. Quindi io temo che questo secondo emendamento scatenerà un'ennesima ondata di controversie. C'è da dire che per esempio a Roma è successo che l'assessore al bilancio Maurizio Leo ha preso una posizione abbastanza originale rispetto a questi emendamenti, ha praticamente stabilito che nel comune questa tariffa ha una natura tributaria, pertanto non gli va applicata l'IVA, ma non credo che il Comune di Roma per esempio abbia intenzione in ogni caso di rimborsare il pregresso agli utenti, e quindi si sta viaggiando ancora un po' in maniera individuale nelle varie zone d'Italia. E c'è anche un'altra, adesso prendendo anche in esame le varie iniziative individuali che stanno prendendo le associazioni dei consumatori, che in questi mesi avevano suggerito agli associati di chiedere il rimborso dell'IVA pregressa a tutti i gestori del servizio rifiuti del proprio paese. C'è anche una cosa che segnala Altro Consumo, e che avrebbe così raccontato nei giorni scorsi con un comunicato stampa quanto ha scritto l'Agenzia delle Entrate rispondendo ad un interpello della società Treviso Servizi. L'Agenzia delle Entrate stessa ha detto che la tariffa sui rifiuti è natura tributaria e come tale non può essere assoggettata all'IVA. E quindi, Luigi, si stanno formando pronunce, atteggiamenti, anche modi di comportarsi da parte dei comuni diversi, che non fanno altro che rendere ancora più confusa la situazione, mi sembra. Allora, si sta orientando si sta affermando una tesi abbastanza prevalente, salvo ovviamente quello che accadrà una volta che le carte saranno sparigliate con questi emendamenti, uno dei quali secondo me è delirante. Il principio che si sta affermando è che la TIA è irreversibilmente un tributo, essendo un tributo l'IVA non deve essere applicata. Questo mi sembra che si stia affermando abbastanza chiaramente. Poi le iniziative più svariate sono per il pregresso, cioè che cosa facciamo per rimborsare l'IVA per il passato, e qui ovviamente nessuno vuol tirare fuori i soldi, non li vogliono tirare fuori i gestori. Anche perché si parla di qualcosa che vale un miliardo di euro secondo l'ANCI, l'Associazione dei Comuni d'Italia, per cui è anche abbastanza naturale pensare che i comuni non vogliono imbarcarsi di un'operazione di rimborso così massiccia, perché li manderebbe veramente al dissesto, Luigi, no? Sì, da qui l'emendamento di cui si è fatto promotore proprio Maurizio Leo, era il secondo emendamento al quale facevo riferimento, che è stato elaborato da parte di Maurizio Leo, cioè loro dicono la TIA è un tributo, va bene, l'IVA non ci si applica, però per il pregresso l'IVA è un componente del costo della tariffa e quindi non te la posso rimborsare. Si tratterà di capire gli effetti del secondo emendamento, che secondo me sono devastanti dal punto di vista delle controversie. Luigi, un'ultima considerazione che segnalava il collega Gianni Trovati, che insieme a te si è occupato a lungo di questa faccenda per le pagine del Sole 24 Ore. Allora, se venisse definitivamente stabilito che questa TIA è un tributo e quindi non gli va applicata l'IVA, e pertanto magari ammettiamo che venisse organizzato un impianto per dare la possibilità alle famiglie degli utenti di chiedere rimborsi pregressi, questa sarebbe una cosa. Non sarebbe però così tanto conveniente per le imprese fare questa richiesta, se non mi sbaglio, perché alle imprese, come dire, è più conveniente che venga mantenuta l'ipotesi tariffa, perché scaricano l'IVA. Sì, è così. È così perché non applicando l'IVA, essendo la TIA un tributo e quindi senza IVA, l'IVA diventa, come ho detto prima, una componente di costo della tassa e quindi non è più detraibile in quanto IVA, ma diventa tassa. Se invece viene affermata la natura di entrata patrimoniale, allora l'IVA continua ad essere applicata, ma per le imprese l'IVA non è un costo perché è interamente detraibile e quindi diciamo la cosa diventa favorevole per le imprese. Ma qui secondo me la cosa non può essere decisa sulla base di quanto convenga a Tizio e quanto convenga a Caio. Si tratta di capire come stanno le cose in punto di diritto. Poi conviene o non conviene, questo dovrebbe venire dopo. E secondo noi, insomma, la Corte Costituzionale lo aveva detto abbastanza chiaramente. Non è finita qua di sicuro, Luigi, quindi ci risentiamo, immagino, abbastanza presto. Grazie, sì, buona giornata. Grazie a voi. Presto. Alessandro, a proposito, parlavo di rimborsi dell'IVA sui rifiuti, oggi invece facciamo a Salvadanaio un punto sui rimborsi che magari le compagnie aeree o i tour operator hanno o non hanno dato a tutti quei passeggeri, turisti delle scorse settimane che si sono trovati imbrigliati in giro per il mondo a causa del vulcano di cui tu noto. Allora, venerdì scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato una proroga del condono edilizio per la regione Campania. Sono state bloccate le ruspe nei confronti di molti edifici abusivi. D'altronde c'è un abusivismo edilizio per necessità, ha detto chi sostiene questo necessario provvedimento. Voi che ne pensate? Esiste un abusivismo edilizio per necessità? E allora alle 8:33 minuti, eccoci qua nuovamente in diretta, il momento del nostro sondaggio. Parliamo di abusivismo edilizio oggi, in particolare in Campania, anche se è una piaga purtroppo italiana, ma insomma ci concentriamo sulla Campania. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Perché un po' sotto silenzio, d'altronde l'attualità politica impone altro sui giornali, ma il Consiglio dei Ministri, sotto silenzio per colpevole disattenzione dei giornali, intendo. Il Consiglio dei Ministri ha approvato per la Regione Campania una proroga del condono edilizio venerdì scorso. Sostanzialmente che significa? Significa che le ruspe che erano pronte già ad abbattere molti immobili abusivi sono state fermate fino al 30 giugno 2011. È un provvedimento che salva gli immobili costruiti prima del 31 marzo 2003, data dell'ultimo condono, e che sono abitati solo dalle persone che non abbiano un'altra abitazione, cioè che siano la prima casa. D'altronde, per esempio, il ministro Carfagna ha detto c'era un problema anche sociale, molti bambini, anziani, disabili, tutti che sarebbero rimasti senza un'abitazione. C'è chi dice, anche chi ha sostenuto questo provvedimento, che esiste una sorta di abusivismo di necessità. Per esempio il senatore Sarro, buongiorno senatore Sarro, Carlo Sarro del PDL, ce lo spiega che vuol dire l'abusivismo di necessità? Guardi, l'abusivismo di necessità è una categoria, per così dire, più giornalistica che giuridica, nel senso cioè che indica quegli interventi edilizi che sono realizzati non a fini speculativi ma per soddisfare l'esigenza abitativa diretta di una famiglia. E lei in qualche modo lo giustifica? Nel senso, io ho letto, lei è uno dei fautori di questo provvedimento, si è molto battuto per la necessità di questo provvedimento. E in qualche sua intervista ho incontrato persone umili, semplici, che avevano il bisogno di avere una casa, cioè non c'era dietro la criminalità organizzata, dietro a queste abitazioni. Però capisce che è molto sottile la differenza, riuscire a far passare un concetto del genere, perché molti ci dicono, beh, allora passi l'evasione fiscale necessaria e io evado il fisco. Sì, guardi, innanzitutto io dovrei, se mi consente, operare una piccola precisazione. Nella sua introduzione il decreto di cui noi stiamo discutendo non ha prorogato il condono edilizio, ha semplicemente adottato una misura di sospensione delle demolizioni. Sì. Quindi non c'è riapertura dei termini del condono. Poi la questione che noi stiamo portando avanti è esattamente nella direzione della legalità. Cioè noi abbiamo avuto in Campania purtroppo una situazione paradossale, una sorta di cortocircuito normativo, per cui la nostra regione è stata esclusa dalla possibilità di utilizzare l'ultimo condono edilizio, cioè di beneficiare di una legge dello Stato. Sì. Questa e la battaglia che noi portiamo avanti, confortati da due sentenze della Corte Costituzionale che hanno dichiarato illegittimi i provvedimenti che la Regione Campania all'epoca adottò. Con scelta molto opinabile affermò che il condono non si applicava in Campania e questa scelta è stata pesantemente censurata dalla Corte. Quindi voi vorreste anche la riapertura del condono perché la Campania non ne ha usufruito finora. La riapertura. Ecco, perché è vero che fissiamo il termine, questo è un passaggio molto importante, come lei ha correttamente ricordato prima, al 31 marzo 2003, che era esattamente il termine previsto dalla legge sul condono illegittimamente non applicata in Campania. Sa però, senatore Sarro, noi per esempio ci chiediamo, esiste secondo voi, o meglio, giustifichereste un abusivismo per necessità, insomma, questa semplificazione giornalistica? C'è una valanga di no per il momento, l'89%. Anche Sergio Rizzo sul Corriere ha definito, chiamiamo questo provvedimento per quello che è, una schifezza. Perché insomma cioè, la gente fatica a capire di fronte a quelle immagini delle ruspe che stanno per abbattere degli edifici abusivi, abbiamo visto anche a Ischia con le persone contro la polizia, perché insomma succede questo? E poi ovviamente si creano delle situazioni di forte tensione, di forte allarme. Io non so se è una schifezza chiedere una parità di trattamento tra i cittadini della Repubblica, perché in effetti noi siamo di fronte ad una situazione di questo tipo. Come prima ricordavo, si è creata una situazione di disparità di trattamento. Allora, l'articolo 3 della Costituzione che fissa l'eguaglianza dei cittadini, noi lo invochiamo spessissimo. In questa vicenda è stato richiamato anche dalle sentenze della Corte Costituzionale e allora io chiedo, è una schifezza invocare un ripristino di una posizione giuridica che è stata illegittimamente lesa? Allora, è interessante partire da questo punto. Allora, io voglio salutare, la stanno ascoltando, senatore, il procuratore Ugo Ricciardi, che saluto, buongiorno. Buongiorno. È sostituto procuratore generale a Napoli, si occupa nella procura di Napoli del piano di demolizione degli immobili sanzionati come abusivi da sentenze passate in giudicato. E allora, procuratore, che fa? Da questo punto di vista le hanno tolto il lavoro, no? Nel senso... Per il momento, il lavoro sicuramente non manca, non manca né mancherà assolutamente. Io diciamo reputo positivo che qualcosa si stia smuovendo. Le posso portare però dei dati che sicuramente il senatore Sarro conosce, però forse è meglio esplicitarli meglio, insomma. Tenga presente che la Procura Generale di Napoli, che abbraccia come competenza tutta la Campania, Salerno esclusa, coordina ben 393 paesi in tema di abusivismo edilizio. Si occupa nel caso specifico di sentenze passate in giudicato. Che cosa significa? Significa che si arriva all'abbattimento dopo aver irrogato ben 5 ordini di demolizioni. Cioè persone che sono state stravvisate per ben 5 volte con la sentenza passata in giudicato e che non hanno abbattuto nulla. Tenga presente che il dato a livello distrettuale, quindi sia della Procura Generale che di tutte le procure del distretto, e sono ben 8, è almeno di 30.000 manufatti da abbattere. 30.000 da abbattere, cioè tutte con sentenze passate in giudicato. Significa con sentenze passate in giudicato. E 5 avvisi già avuti e che nessuno... E 5 ordini già avuti. Tenga presente che a questi 30.000 noi dobbiamo aggiungere, perché comunque provengono dal giudiziario, tutte le sentenze che nel frattempo negli anni si vanno a prescrivere, si sono prescritte, quindi quando sono prescritte l'ordine di demolizione viene revocato e quindi è un discorso, diventa un discorso amministrativo solamente. No, interessante. Io a questi dati li conoscerà anche il nostro terzo ospite, che saluto, Michele Buonomo, è presidente di Liga Ambiente Campania. Buongiorno Buonomo. Buongiorno, li conosco sicuramente. Intanto io voglio dire, a livello politico, il senatore Carlo Sarro è del PDL, però per esempio il PD Vincenzo De Luca si sindaco di Salerno, che si è candidato per esempio alla regione Campania, sapete, e non ha vinto, ha vinto Caldoro, anche lui è a favore di questo provvedimento. Questo per dire, insomma, che è un appoggio bipartisan. Anche De Luca ha detto sì, bisogna fermare le ruspe, bisognerà fermare le ruspe, questo per correttezza politica. Allora, buon uomo, qui c'è il senatore Sarro che ci dice la Campania non ha potuto usufruire del condono, quindi che facciamo? È un trattamento non paritario rispetto agli altri, alle altre regioni, insomma, e quindi si sta sanando una situazione, si sta facendo un'azione di legalità in realtà. Un'azione di legalità a favore di quanti non riconoscono questa legalità, in favore di quanti quotidianamente disprezzano questa legalità. Io vorrei fare però due brevissime considerazioni. La prima, pure per rassicurare la ministro Carfagna, che teme per i bambini, i portatori di handicap, le persone anziane. Come diceva il dottor Ricciardi, tra il primo ordine di abbattimento e l'abbattimento reale, tra l'altro scarsissimi fino ad oggi in Campania, a volte passano anni. Insomma, i comuni, poi i sindaci così solerti a prendersi cura in questi casi, a schierarsi a favore degli abusivi, avrebbero potuto fare molto per trovare una casa vera, legale a queste persone. Sì. Questa è la prima considerazione. La seconda, allora si parla, insomma, in termini giornalistici, come diceva il senatore Sarro, di abusivismo di necessità. Sì. Ebbene, io vorrei chiedere al senatore se ha idea di quanto costi costruirsi una casa illegalmente, se poche decine o a volte centinaia di migliaia di euro. Cioè, questa è un'obiezione interessante che volevo fare anch'io. Qualcuno dice, senatore Sarro, abusivismo di necessità. Vabbè, utilizziamola questa espressione, anche se giornalistica. Però qua costruire una casa costa 150, 200 mila euro, non lo so, anche se uno se la fa abusiva. Insomma, quindi questi soldi, perché non utilizzarli per comprare una casa normale, un mutuo normale, Sarro? È capitato, tra le altre cose, qui credo che sia noto perché la stampa si è lungamente interessata di queste vicende, che anche cittadini ignari completamente hanno dal notaio addirittura acquistato appartamenti in interi complessi che poi sono risultati totalmente abusivi. E qui siamo in presenza di una ipotesi di abusivismo speculativo, non da parte dell'acquirente, ma di chi ha promosso questa operazione di tipo immobiliare. Quindi non sempre si ha riparo da questo rischio. Quanto al costo, e qui non è che bisogna criminalizzare chi casomai investe risparmi di tutta una vita per costruire la propria abitazione. Il punto è che c'è una situazione a lungo, per una responsabilità precisa, dei livelli di governo territoriale, di blocco dell'attività edilizia o di estrema difficoltà nell'ottenere i titoli abilitativi. Insomma, la Regione Campania ha cominciato a dotarsi di una legge adeguata alla normativa nazionale solo a partire dal 2004 e ancora oggi sono tantissimi comuni sprovvisti degli strumenti urbanistici. Quindi questa situazione, che certamente io non giustifico e ritengo che sia una situazione normale, determina delle patologie. Noi siamo però impegnati in una battaglia molto precisa, che è quella di, ripeto, garantire l'esercizio di un diritto. Poi una precisazione, sì. Ho ascoltato con attenzione l'intervento del dottor Ricciardi, certamente la magistratura fa il proprio lavoro, garantisce l'esecuzione delle sentenze ed è giusto che sia così, ma la presentazione della domanda di condono, quindi la possibilità di esercitare questo diritto, non significa automaticamente ottenere il condono. Sono due passaggi completamente diversi. Allora, andiamo, ce la facciamo? Sì, prima della pubblicità. Fulvio da Livorno, 800 24 00 24. Fulvio, che dice? Dico che c'è vento a Livorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Dico che l'abusivismo per necessità assolutamente. No, non si è capito. Fulvio, lei lo condivide? Cioè, l'abusivismo? Sì, certo. Sì, e perché? Per necessità, quando la necessità è dimostrata, è dimostrabile. Che vuol dire dimostrata? Cioè, si va in tribunale, certo. Si va in tribunale per dimostrare che uno può rubare una cosa? Cioè, voglio dire, si basta vedere la denuncia di reddito delle persone, se uno non possiede altre case, se non possiede, se non ha un patrimonio tale per potersi comprare una casa. Che fa? Diciamo, si fa una bella casa abusiva. Normale. Si fa una bella casa abusiva. Per necessità lo fa, soprattutto perché ha pochi soldi per comprare altre case. Ischia, che io conosco bene, le case sono poche e costosissime. E quindi se ne facciamo una abusiva se uno... Va bene, è interessante. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a hacer en mi vida. Bianco o nero? Eccoci allora, l'abusivismo di necessità può essere non condannabile. Prima che replichi al nostro Fulvio da Livorno che dice sì, l'abusivismo di necessità, se uno non ha i soldi che fa? A Ischia ci sono poco territorio piccolo, poche case, che si fa? Sentiamo anche Roberto da Ferrara, buongiorno. Roberto, sì, pronto. Lei che dice? Io dico che sta creando più danni l'abusivismo che l'ultima guerra mondiale, cioè l'ultima guerra mondiale con i bombardamenti. Sì. A questo estremo, visto che andiamo contro il federalismo, cioè contro, arriveremo, speriamo. Sono dell'idea di dire abbandoniamoli queste situazioni, perché non c'è politico che riesca a trovare l'argomentazione di una sceneggiata nel meridione. Che vuol dire, scusi Roberto? Voglio abbandoniamo dire che a un certo facciamo momento, si va a cavillare su una che vuole fare la controspedizione dei mille, non ho capito che vuol dire abbandoniamoli. Abbandoniamoli nelle sue scelte, non a livello nazionale. Ma chi abbandoniamoli? Cioè, vuole a livello territoriale. Cioè vuole la secessione? Vi va bene così? Va bene. La secessione, non lo so, mi dica cosa vuole. Ma non è neanche questione di secessione, è una vita che proviamo di mettere delle regole. E nel meridione salta fuori il commediografo che riesce a trovare un cavillino, chiamiamolo cavillino perché potremmo andare di lungo, come ha detto lei prima, cinque sentenze ci sono state. Sì, è mai possibile avvisi. Che si arrivi a cinque sentenze? Allora io dico, se perdiamo del tempo, queste società ci costano enormità. Ma che senso? Vabbè, abbandoniamoli, così un po' uno sfogo, abbandoniamoli Roberto. Allora, procuratore Ricciardi, non vi abbandoniamo, stia tranquillo. Però risponda all'ascoltatore di Livorno che dice, anche lei come la vede, sarà una semplificazione giornalistica, ma questa del reato, perché è pur sempre un reato, no, l'abusivismo, sì. Per necessità. Ma guardi, queste sono sentenze già chiuse, dove già è stato stabilito tutto e dove il giudice ha emesso sentenza definitiva, quindi sono chiuse completamente. Se noi parliamo di abuso di necessità, allora io le devo dire che anche il ladro ruba per necessità. Allora che cosa succede? Che quando si arriva alla fine del processo, anche il ladro non dovrebbe avere l'ordine di carcerazione, perché è una necessità anche quella. Noi in realtà da questa situazione di illegalità non ne usciamo, quindi tutte le sentenze che sono oramai passate in giudicato devono essere eseguite, altrimenti il ripristino della legalità non avverrà mai. Tenga presente che noi parliamo ante 2003 col decreto legge, ma noi abbiamo dal 2004 al 2010 migliaia e migliaia di immobili abusivi che sono completamente fuori da tutto, fuori da ogni regole. Un ascoltatore ci scrive, non basterebbe per esempio non dare le utenze, cioè il gas, tagliare la luce, oppure lì insomma bisogna prima garantire dei diritti, no, procuratore Ricciardi? Cioè, come sono funziona? Anni che noi attraverso le procure della Repubblica stiamo sollecitando questi distacchi, perché sono distacchi completamente illegali, sono attacchi di luce e di utenza. Però che fare? C'è effettivamente poi una questione sociale, che fare? Non so, uno c'ha... è un problema insomma che si pone, uno c'ha una famiglia con dei bambini, con degli anziani, gli stacchiamo la luce, il gas, l'acqua. Guardi, io le dico, le posso dire solo questo, fin quando non l'abusivo non perde la proprietà rimanendo in casa, il fenomeno dell'abusivismo edilizio aumenterà a dismisura. Cioè il soggetto deve rimanere in casa, rimarrà con un canone, ma deve perdere la proprietà dell'immobile abusivo. Questa è una strada assolutamente da percorrere, diversamente il fenomeno aumenterà a dismisura, e tenga presente che è un fenomeno che va specialmente dal Lazio fino alla Sicilia, non è solo un fenomeno campano. Senatore Sarro, oppure no, vorrei Buonomo, che ne pensa di quest'ultima proposta del procuratore Ricciardi, cioè rimanere all'interno dell'immobile ma perderne la proprietà, però così si va a sanare una situazione nata abusiva, insomma. Il problema resta dal punto di vista ambientale. Io inviterei il senatore Sarro, che è anche mio senatore, essendo io un cittadino italiano, qualche volta a salire o sul Vesuvio o sui tornanti che portano alla costiera Amalfitana, partendo dall'agro nocerino Sarnese, che è una delle zone maggiormente devastate dall'abusivismo in Campania, ed è tutto dire, per guardare di sotto, vedrà un continuum di cemento. È possibile che abbiamo ancora bisogno di nuove costruzioni, o il problema non si pone in altri termini, vuol dire fare sì una legge ma a favore dell'edilizia sociale. Questa è un'accusa che le è stata fatta, senatore Sarro, cioè di favorire, qualcuno ha detto favorire il partito del cemento, favorire addirittura la camorra. Senatore Sarro, sono accuse pesanti anche che sono volate. Tra l'altro sono componente della commissione antimafia, quindi credo di conoscere abbastanza il fenomeno e posso assicurarle che gli interventi che la camorra compie in termini di investimento certamente non passano attraverso la costruzione di una casa di 90-100 metri quadri, perché la camorra ha sofisticatissimi sistemi di riciclaggio che partono da società le quali sono tutte perfettamente legali e hanno dei prestanome naturalmente, ma insomma, voglio dire, sono due ordini di fenomeni completamente diversi. Se mi consente, tre telegrafiche annotazioni. Sia prima, telegrafico, però, che devo chiudere. La prima, l'ascoltatore di Ferrara: io non credo che sia un cavillo chiedere l'applicazione dell'articolo 3 della Costituzione, parità di trattamento e uguaglianza tra i cittadini. La seconda. Due, il dottore Ricciardi mi trova assolutamente d'accordo e io gli segnalo che nel mio disegno di legge è esattamente previsto questo, cioè che gli immobili possono essere acquisiti dalle pubbliche amministrazioni e ma rimangono le persone. Quindi è una misura che condivido. Terzo, conosco perfettamente il territorio, al buon uomo, e segnalo una circostanza: anche questo decreto di cui stiamo parlando, al primo comma, prevede che tutta l'attività, la sospensione, è preparatoria ad una rivisitazione complessiva del regime urbanistico e vincolistico della nostra regione, perché l'unica risposta seria, l'antidoto all'abusivismo, è la pianificazione del territorio. Ci fermiamo, grazie a tutti, dando la linea a Oscar Giannino che parlerà di politica, le tensioni all'interno del PDL. Ringrazio anche in redazione oggi, oltre a Sara Sprefico, anche Gaia Romani, straordinari, toccano, e grazie a Peter Bescapè in regia. Allora, bianco o nero è radio24.it, siamo qui, a domani 7.30.